portas delante che fermo te ne stai, dimmi come mai. Non vedi che il mio amore fugge via lontano e lo inseguo in vano. Fermami quel treno che muoio di dolore, fallo per favore, fa che io possa rivedere. Binario, triste e solitario, tu che portasti via col treno dell'amore la giovinezza mia. Odo ancora lo stridere del freno, ora vedo allontanarsi il treno con lei che se ne va. Binario, rete parallele della vita, per me è finita. Ancora lo stridere del freno, ora vedo allontanarsi il treno con lei che se ne va. Binario, rete parallele della vita, per me finita. Binario, binario.